Incontri. Buongiorno, buon pomeriggio e buona domenica a quanti ci ascoltano. Buongiorno e buon pomeriggio e grazie di essere con noi a Marco Tronchetti Provera. Buongiorno a lei e a tutti gli ascoltatori. Marco Tronchetti Provera, presidente e amministratore delegato della Pirelli, sia come personaggio sia come società, non ha bisogno di presentazioni, lo ringraziamo per essere con noi. Un po' il motivo per cui abbiamo chiesto questo incontro è anche ricordare, cosa che avverrà domani in un incontro all'ISPI, la figura di Leopoldo Pirelli, di cui si ricordano proprio il 23 gennaio i 5 anni della scomparsa. Ecco, dottor Tronchetti Provera, come ricorda? Qual è la prima immagine che viene in mente parlando di Leopoldo Pirelli? Beh, per me è un rapporto d'affetto, di lavoro, con una persona straordinaria dal punto di vista sia umano che dell'attaccamento all'azienda, all'impresa, alla storia della sua famiglia. Ecco, Leopoldo Pirelli ha segnato un po' la storia dell'industria italiana, oltre che della Pirelli. È stato protagonista negli anni 60-70, è stato colui che ha voluto peraltro il grattacielo Pirelli, quindi è stato un po' l'artefice di una delle poche multinazionali italiane, che è rimasta tra le poche multinazionali italiane. Ma diciamo che Leopoldo ha raccolto con passione l'eredità della sua famiglia, ha portato avanti in anni difficili, perché l'Italia ha attraversato anni complessi, il terrorismo, le lotte sindacali, ha portato avanti sempre con uno spirito di innovatore qualunque azione nella sua vita, guardando al futuro, guardando all'eredità che aveva avuto per poterla consegnare al futuro ancora più competitiva, e da qui anche le riforme di cui lui è stato promotore in Confindustria. Ecco, si può ricordare appunto il rapporto Pirelli, è stato l'artefice un po' di un gruppo di lavoro che negli anni 70 ha riunito alcuni esponenti di Confindustria, hanno segnato un po' la svolta di questa organizzazione, una svolta positiva che poi ha portato la Confindustria ad essere un protagonista poi dello sviluppo di questi anni. Ma sì, il suo sforzo era quello di avvicinare la Confindustria alla realtà del paese che era in evoluzione, un paese che aveva bisogno di una società aperta, pronta al dialogo fra le parti sociali, in grado di partecipare al grande progetto europeo e quando si incominciavano a intravedere quelli che erano i segnali della globalizzazione. Ecco, lui con Gianni Agnelli era il presidente di Confindustria in quegli anni, ha portato avanti proprio un'ipotesi di apertura globale del sistema Italia. Possiamo dire che è stato un po' un profeta in parte inascoltato. Beh, questa è la storia del nostro paese, le persone di qualità hanno fatto molto per questo paese, raramente il paese ha riconosciuto questo contributo attraverso un'evoluzione delle proprie strutture in grado di esprimere quello che questo paese potrebbe esprimere. Ha avuto anche qualche sfortuna proprio nella sua avventura imprenditoriale, soprattutto nei confronti dell'esterno, nella volontà di ampliare gli orizzonti della società. E ci sono stati vari tentativi di seguire quello che all'epoca era un'esigenza, la dimensione. Queste operazioni alla ricerca di dimensione non andarono a buon fine e la Pirelli dovette ricominciare il suo cammino. Comunque la priorità delle priorità era sempre quella di garantire un futuro alla Pirelli. Come ha trovato lei la Pirelli, il ricordo suo della Pirelli quando è entrato in Pirelli negli anni 90, inizio degli anni 90 mi sembra? In realtà io sono entrato a metà degli anni 80, poi sono diventato responsabile della gestione industriale all'inizio degli anni 90, ero stato prima in Pirelli C, poi in Società Internazionale Pirelli, e la responsabilità del gruppo industriale ha fatto emergere quelle che erano le qualità di fondo dell'azienda, che in un momento di grandi difficoltà, perché il 91-92 furono anni estremamente difficili, la società faceva fatica a guardare al futuro, trovai della gente straordinaria che capace anche di fare un passo indietro pur di garantire futuro all'azienda. Ecco, il 92 è ricordato come un anno drammatico anche dal profilo economico, una delle grandi crisi più gravi che ha dovuto affrontare l'Italia. Indubbiamente essere un uomo di impresa comporta anche di dover tener conto dello scenario esterno, quindi era doppiamente difficile entrare ad avere responsabilità di un'impresa come la Pirelli in quegli anni. In quel momento bisognava fare due cose, bisognava da un lato ristrutturare, perché purtroppo era necessario prendere atto dei cambiamenti che erano intervenuti nel quadro competitivo mondiale, dall'altro bisognava anche dare una visibilità sul futuro a chi lavorava per l'azienda e con l'azienda. Quindi il lavoro che facemmo insieme a a tutti i manager della Pirelli fu quello proprio di unire la ristrutturazione al rilancio dell'azienda per poter far assorbire quelli che erano i sacrifici richiesti un po' a tutti da una parte con una visione positiva del futuro. Ecco, qual è stata la strategia che lei ha impostato in quegli anni, la strategia di apertura, di innovazione, di globalità, ma di fronte a questa società, la società come l'aveva trovata, quali erano i punti principali su cui ha dovuto intervenire? La prima cosa era rimettere la ricerca al centro, far vedere come l'azienda era in grado di competere, che la dimensione non era la priorità assoluta, il mondo si stava evolvendo verso una segmentazione del mercato, lì la Pirelli doveva giocare la sua partita. Altri giocavano sul mercato di massa, noi dovevamo giocare sulla nostra leva geografica dell'essere un po' ovunque, accentuare questa leva e innovare sui prodotti. Quindi era una società che aveva già i suoi business particolari, allora aveva i pneumatici, aveva i cavi, aveva altri elementi, poi si è focalizzata nel corso degli anni soprattutto sul fronte dei pneumatici. Sì, i pneumatici allora erano la parte debole all'inizio degli anni 90 del gruppo, i cavi erano quelli che sostenevano come generazione di cassa il business, i prodotti diversificati erano una complessità di attività difficili da tenere insieme, le esigenze finanziarie anche dell'azienda portarono a dismettere la parte prodotti diversificati, ma il mondo andava sempre più verso una specializzazione, la ricerca dello sviluppo industriale attraverso le conglomerate stava passando di moda. Ecco, quindi più che una logica di acquisizioni c'è stata una logica di espansione, di ricerca, magari di piccole acquisizioni per cercare di presidiare i mercati. Così fu, negli anni 90 l'azienda si sviluppò sia nei pneumatici che nei cavi attraverso piccole acquisizioni, aperture di nuove attività come si fece in Cina con i cavi e con ristrutturazioni che colpirono anche i cavi perché l'avvento della fibra ottica portò alla chiusura di molte fabbriche che producevano cavi in rame per telecomunicazioni che ormai erano obsoleti. Quindi ci furono una serie di crisi, le affrontammo tutte con spirito costruttivo. Ecco, però anche l'avvento della fibra ottica vi diede l'opportunità di sfruttare un'occasione entrando in un mercato nuovo e avendo dei successi notevoli. Certamente sì, la fibra ottica ci permise di spingere sulla ricerca in settori avanzati come la fotonica, fummo capaci di produrre dei brevetti molto sofisticati che ci portarono poi a delle operazioni di grande successo per l'azienda. Ecco, in questo senso c'è qualcosa in questi 20 anni in cui lei è stato alla guida appunto della Pirelli di cui si rammarica? Qualche occasione perduta? Ma guardi, io devo dire che ho avuto la fortuna di vivere con intensità tutti i periodi della Pirelli. Le difficoltà erano un clima naturale, penso che le imprese vivano sempre, almeno debbano vivere con la sensazione che il mondo è in continua competizione, che se non si guarda sempre a cosa si può fare di meglio, alla fine ci si ritrova a non essere leader. Quindi non rimpiango nulla, abbiamo sempre fatto delle belle battaglie, qualcuna l'abbiamo vinta, qualcuna l'abbiamo persa. La soddisfazione maggiore di questi anni qual è stata? La soddisfazione maggiore certamente è stata la ripresa della Pirelli dopo la crisi del 92, superata la crisi dei pneumatici, superata la crisi dei cavi, ci si trovò a guardare al futuro con maggiore serenità. Quindi superare la crisi cosa ha voluto dire? Ha voluto dire sicuramente dal punto di vista aziendale rimettere a posto i conti, ridare un'azienda con prospettive di crescita, ma anche creare un'azienda che è diventata un'azienda globale. Assolutamente sì, la stessa soddisfazione di quegli anni la stiamo avendo in questi anni, che sono anni altrettanto difficili, se non di più, siamo in mezzo a un passaggio difficile, però in questi ultimi anni abbiamo allargato i nostri orizzonti, siamo andati in Egitto, siamo andati in Cina, siamo andati in Romania, stiamo andando in Russia, stiamo andando in Messico, cioè l'azienda ha allargato i suoi confini, è globale ed è un'azienda che sta sui mercati con le sue tecnologie e con i suoi uomini, col cuore e la testa in Italia e con le attività in tutto il mondo. Incontri. Riprendiamo il nostro incontro, grazie a chi ci ascolta, con il dottor Marco Tronchetti Provera, presidente e amministratore delegato di Pirelli. Abbiamo visto nella prima parte la figura di Leopoldo Pirelli, ricordiamo che domani appunto si ricordano i 5 anni della scomparsa, il ruolo che ha avuto Leopoldo Pirelli anche in Confindustria con il rapporto che mise appunto alla fine degli anni 70 e quindi abbiamo passato un po' in rassegna lo sviluppo della Pirelli negli ultimi anni, arrivando un po' ai giorni nostri. Ecco, la nuova Pirelli, che radici ha? Qual è stato un po' l'anno di svolta per la Pirelli di oggi e del futuro, dottor Tocchetti Provera? Ma certamente gli anni di svolta sono stati il 2007-2008, quando abbiamo fatto un'altra ristrutturazione in cui abbiamo ridotto la nostra presenza in Europa nella produzione di prodotti standard, abbiamo allargato i nostri orizzonti facendo decollare le fabbriche in Cina, in Romania e iniziando il percorso che ci porta oggi al Messico, alla Russia, con una chiara definizione della nostra strategia sul segmento premium. Quindi è un ricominciare sempre dallo stesso punto, che sono tecnologie e uomini. Quindi global premium leader, questo è l'obiettivo strategico che avete. Globale, essere nella fascia alta del mercato, essere leader in questa fascia. Obiettivi già adesso raggiunti. Sono obiettivi già adesso in parte raggiunti. Stiamo continuando a investire in ricerca per lanciare nuove piattaforme. Abbiamo un progetto ambizioso di lanciare nei prossimi 5 anni 18 piattaforme di prodotto contro le 16 che abbiamo lanciato negli ultimi 10 anni, e questo con un scenario globale più vasto, perché i confini li abbiamo allargati negli ultimi anni, con delle oggettive difficoltà che nascono dalle crisi del mondo occidentale, ma soprattutto dalla crisi europea, ma con buone prospettive a livello globale. Ecco, voi siete presenti in molti mercati, l'ha accennato prima, la Turchia, la Russia, prossimamente in Messico, la Cina, però il cuore resta italiano. Il cuore e la testa rimangono italiani. Ed è possibile fare ricerca e innovazione in Italia? Ma certamente sì. Noi abbiamo proprio in Italia incominciato una nuova avventura con una fabbrica, la più avanzata nel mondo, a Settimo Torinese. In questa fabbrica abbiamo messo tutte le tecnologie più avanzate che noi siamo stati in grado di far evolvere negli ultimi anni, e questa fabbrica comincia a darci delle soddisfazioni. Quindi, grazie alla collaborazione con gli enti locali, con i sindacati, abbiamo iniziato un'altra avventura italiana. Un'avventura, tra l'altro, a parte di questa avventura, è anche la presenza in Formula 1. Voi siete diventati l'unico fornitore delle auto di Formula 1. Una grossa soddisfazione. Ma devo dire che è stata una grossa sfida, che grazie a tutte le persone di qualità che abbiamo all'interno del gruppo siamo stati capaci di vincere. Il primo anno, dopo 20 anni che eravamo fuori dalla Formula 1, la sfida era ancora più impegnativa di quelle precedenti, perché bisognava fornire pneumatici molto avanzati ma con una durata limitata. I nostri hanno fatto davvero miracoli per i tempi di realizzazione e soprattutto per la capacità anche di cogliere le esigenze del circus di Formula 1. Quindi devo dire un ritorno che può essere giudicato positivo anche dal punto di vista dell'immagine, della pubblicità, del marketing. Ma certamente sì, credo che sia un'ottima immagine non solo per la Pirelli ma per la tecnologia italiana nel mondo. Ecco, l'Italia ha bisogno in questa fase di darsi un'immagine di paese moderno, di paese che sa innovare. Come vede la crisi attuale? La crisi attuale è una crisi anche di fiducia. È certo che i cambiamenti sono necessari, è certo che il cammino che il Paese ha preso è quello giusto. Bisogna riuscire anche qui a unire la ristrutturazione con la crescita. Questa è la sfida vera. Il segnale di crescita è anche indispensabile perché la gente riprenda fiducia. Ecco, Pirelli, spero, assume dei giovani, magari pochi in questo periodo, però sicuramente è un po' un punto di riferimento anche per un giovane che vuole iniziare la sua attività lavorativa. Ecco, se lei incontra un giovane che sta entrando in azienda, che cosa gli dice? Ma a un giovane che entra in azienda, posso dire che la mia esperienza è che i manager o tutti i collaboratori italiani nel mondo non hanno nulla da invidiare come professionalità, capacità, creatività con qualunque altro manager o impiegato operaio. Quello che è importante avere è avere la voglia, quello che semplificando si chiama la fame, di crescere. Questo è qualcosa che si è un po' perso. Quello che diceva Steve Jobs, siate affamati. Be hungry, be foolish. Sì, questo è. Steve Jobs l'ha ben sintetizzato, ma questo è quello che dobbiamo dare ai nostri giovani. Opportunità e stimoli. Questi ragazzi hanno bisogno di credere nelle cose che fanno, credere in se stessi, dobbiamo aiutarli a esprimere il meglio di quello che possono, che sono le loro qualità. Ecco, forse la società italiana dà una testimonianza di essere una società un po' appagata, un po' ferma, un po' incapace di muoversi, di ristrutturarsi proprio a livello sociale. Questa non è forse una buona testimonianza per i giovani? No, questo è negativo. Questo è non solo un problema italiano, un problema dell'Europa. I giovani devono costruire il loro futuro. Poi devono avere ovviamente le opportunità, ma ci sono decine di milioni di giovani nel mondo che hanno magari meno preparazione, meno qualità, ma hanno più voglia di costruirsi il futuro. Ai giovani noi, come generazione, abbiamo il dovere di dare delle opportunità e questo è il nostro dovere. Ai giovani dobbiamo dire però tu poi ti costruisci la tua strada. Non dobbiamo diventare un alibi, cioè non possiamo essere un alibi verso noi stessi, noi dobbiamo consegnare una società migliore ai nostri figli, come è stata consegnata dai nostri genitori, ma i nostri figli devono avere la voglia e gli stimoli per costruire anche loro una società migliore. Dovremmo pagare un po' anche noi, la nostra generazione, un po' i debiti che abbiamo accumulato, non lasciarli tutti sulle spalle dei nostri nipoti. Certamente sì, noi dobbiamo dare la sensazione che il futuro può essere migliore di quanto non sia stato negli ultimi anni agli occhi di chi aveva 20 anni o 25 anni, 10 anni fa. Dobbiamo ridare un futuro come quello che almeno io e la mia generazione abbiamo avuto 35 anni fa. Ecco, importante in questa prospettiva è il ruolo dell'università. L'università prepara i giovani, la scuola, l'istruzione prepara i giovani. L'università italiana è molto spesso criticata per la sua incapacità di essere adeguata un po' alla modernità, alle esigenze dell'innovazione. Ma io qui faccio un richiamo anche a noi imprenditori. Quando io mi sono avvicinato all'università italiana ho trovato solo sorprese positive, non sorprese negative. Abbiamo ricostruito relazioni negli ultimi 20 anni, abbiamo fatto insieme un cammino importante col Politecnico di Milano, col Politecnico di Torino, con la Normale di Pisa, con tante altre università. Quindi è possibile, c'è gente di qualità, si possono fare molte cose con le università italiane. La Bocconi non l'ho nominata perché la sarei fatto in causa, ma però è chiaro che ci sono molte università di ottimo livello che non hanno nulla da invidiare alle università straniere. Anche perché i giovani italiani laureati in università italiane, quando vanno all'estero, riescono ad avere grandi opportunità, riescono a fare carriera. Ecco, un po' è un problema i giovani italiani che vanno all'estero, però questo dimostra che l'università italiana in fondo prepara bene anche ad affrontare le sfide. E poi forse il sistema economico che crea qualche difficoltà all'ingresso dei giovani nei posti di lavoro. No, ma noi abbiamo un difetto che si è stratificato negli anni, stiamo proteggendo forse troppo chi ha pochi stimoli e stiamo dando troppo poco a chi ha volontà di fare. Questo è un tema che dobbiamo porci seriamente. Abbiamo creato una società chiusa, non una società aperta, che protegge i protetti e che non protegge quelli che invece hanno, diciamo, più bisogno di essere protetti. Questo è qualcosa su cui riflettere. È qualcosa su cui riflettere, facile da enunciare, da giudicare, ma difficile poi da mettere in pratica, da cambiare. Ecco, guardando un po' la sua esperienza internazionale, abbiamo parlato prima appunto della presenza della Pirelli in tanti paesi, dalla Russia alla Turchia, al Brasile, l'Argentina. Ecco, quali di questi paesi l'ha sorpresa di più negli ultimi anni come capacità di crescere, come capacità di cambiare? Devo dire il Messico, sembra un paese che da noi è poco conosciuto, un paese molto complicato, che ha dei problemi serissimi di criminalità, ma che ha avuto una classe dirigente in questi anni che ha tentato, con una battaglia seria nei confronti delle, diciamo, distorsioni del paese, di dare un futuro al paese, sapendo che probabilmente perde consenso nel combattere le distorsioni. Io ho apprezzato molto questo, non parlo del Brasile perché è stato talmente clamoroso il successo del Brasile che se avessimo fatto un terzo di quello che loro hanno fatto nel nord-est, lo avessimo fatto nel sud del nostro paese, forse oggi avremmo qualche speranza in più negli occhi dei nostri giovani. Ecco, il Messico come nuova sorpresa, voi farete delle nuove iniziative in Messico? Sì, stiamo costruendo una fabbrica. Una fabbrica di pneumatici, sì, com'è? Sì. Ecco, a livello complessivo sull'Italia, per concludere, dobbiamo avere fiducia, ma possiamo avere fiducia in questo paese? Ma certamente sì, è certo che questo paese non può far tutto da solo. Se qualcuno pensa che il paese possa crescere da solo, si sbaglia. Il paese può crescere solo con l'Europa. Il paese può preparare le strutture affinché si colga l'opportunità della crescita. Negli ultimi 10 anni noi siamo cresciuti meno della media d'Europa. Quello che il Paese può e sta facendo è il preparare le strutture di tutti i tipi, che vanno da quelle finanziarie a quelle delle diverse categorie che oggi vengono messe in discussione, per poter essere più flessibili, più rapidi nel crescere. La crescita è figlia di una crescita europea. Non si può chiedere, secondo me, a questo governo di dare la crescita al Paese. Si può chiedere a questo governo e all'Europa di muoversi tutti insieme perché l'Europa torni a essere un'area competitiva e che cresce. Quindi fare innovazione non solo a livello industriale, non solo a livello tecnologico, ma fare innovazione anche come sistema sociale. Assolutamente sì, il sistema sociale italiano non può essere diverso dai più avanzati sistemi sociali europei. Noi lavoriamo in tutti i paesi d'Europa, vediamo le evoluzioni che ci sono state altrove, vediamo anche dei segnali positivi in Italia. Si tratta di non fare battaglie di principio. Lavoriamo sulla realtà, non lavoriamo sugli slogan. Ecco, anche se può essere uno slogan, comunque la fiducia c'è, si può anche contagiare. Ma io credo che la fiducia è certamente un motore di sviluppo. Perché la fiducia abbia una sua base solida, bisogna ci siano dei fatti. Qui i fatti non possono venire solo dall'Italia, devono venire dall'Europa. Ecco, cosa si aspetta come ultimissima domanda da questo 2012, anche personalmente, come dottor Marco Tronchetti Provera? Ma io mi aspetto proprio il recupero della fiducia. Questo è un elemento fondamentale. Senza il recupero della fiducia vivremo degli anni difficili, vivremo dei mesi difficili. Gli sforzi di tutti devono essere nella direzione di dare corpo a tutti i progetti che possono ristabilire un'atmosfera positiva, non fatta di chiacchiere, ma fatta di progetti. Grazie, ringraziamo il dottor Marco Tronchetti Provera di essere stato con noi questo pomeriggio e ancora buona domenica a quanti ci hanno seguito. Grazie a tutti voi.